guardo se quel letto che ci desidera il conte farà buona figura in questo loco. E in questa stanza? Certo, a noi la cede generoso il padrone. Io per me te la dono. E la ragione? La ragione l'ho qui. Perché non puoi far che passi un po' qui? Perché non voglio. Sei tu mio servo. Ma non capisco perché tanto ti spiace la più comoda stanza del palazzo. Perché io sono la Susanna e tu e sei pazza. Grazie, non tanti elogi. Guarda un poco se potria meglio stare in altro loco.